Io sono qui. Voi siete qui. Di Matteo Caccia. Qualche mese dopo arrivò la cartolina per la visita di leva. La leva obbligatoria era stata da poco abolita, ma il mio era l'ultimo anno. Tutti i miei amici l'avevano scampata perché universitari, io però lavoravo, quindi non c'era scampo. Potevo essere chiamato. Ciao, sono Paolo, sono nato, vivo e lavoro a Schio e lavoro come impiegato tecnico, ho 30 anni e la mia sposa si chiama Maria. Uno splendido martedì 2 di dicembre a Milano, sole splende, un sole fantastico che entra con dei raggi obliqui nella splendida serra del Sole 24 Ore. Oggi è un giorno come gli altri invece per questo programma, per cui si raccontano storie tutti i giorni, una storia diversa, una persona diversa, una storia al giorno, alle 16 in diretta o in podcast dal sito di Radio 24. Buongiorno a tutti, le 16 e 9 minuti, voi siete qui, io sono Matteo Caccia e questa, quella di oggi, è una puntata che non è una puntata maschile, non è nemmeno maschilista, racconta una storia che è appannaggio soprattutto, direi, degli uomini, perlomeno quando la leva era obbligatoria ed era solo maschile. Quando era obbligatoria era solo maschile, giusto? Adesso invece le donne possono diventare militari, non so in che modo, insomma, non è importante saperlo. Oggi però, vi dicevo, la storia di Paolo racconta un episodio che durava nel tempo 3 giorni. In realtà poi non durava nemmeno, quando l'ho fatto io non durava nemmeno 3 giorni, erano 2, 1 e mezzo, dipendeva. Però per tutti la visita di leva sono stati i 3 giorni. 349-238-6666 o il profilo Facebook o Twitter del programma. Voi siete qui, Radio 24, o il mio profilo Twitter che è Matteo Caccia, semplicemente i vostri 3 giorni. È successo qualcosa legato a quei 3 giorni? Siete nati in una città diversa dalla vostra, siete stati con gente che non conoscevate, vi hanno urlato in faccia delle cose strane, o invece sono stati gentilissimi, vi hanno detto tiri sulla maglietta, non respiri, respiri. 349-238-6666. E sul profilo Facebook del programma, inaspettatamente devo dire, perché noi oggi non vogliamo parlare del militare o della leva obbligatoria, semplicemente raccontiamo una storia, quello che facciamo tutti i giorni, raccontiamo la storia legata a quei 3 giorni lì, alla visita al militare, il primo impatto con la vita militare per tutti quelli che hanno fino al 2005 erano arruolabili. E invece si è creato una sorta di referendum su leva obbligatoria sì, leva obbligatoria no, con due schieramenti ovviamente opposti. Giulio, è stato l'anno più bello della mia vita. Peccato, per tante ragioni, che sia stata abolita la leva obbligatoria. Fabrizio, d'accordo con te. Giulio, Antonio, io ricordo un mondo dove non si doveva chiedere il perché, ma farlo, dovevi farlo e basta. Barbara, addirittura, era un momento fondamentale di crescita. Barbara evidentemente lo sa, per qualche motivo avrà avuto mariti o figli. Un momento di crescita fondamentale dove molte persone scapestrate capivano il dovere e la disciplina. Invece dall'altra parte c'è gente che dice: oh, ma che state dicendo? Fabio, ma che dite? Un anno buttato al secchio, altro che romanticismi. Roberto, un anno buttato, con le 1000 possibilità che ha un ragazzo a 20 anni, tenerlo in una caserma a fare il pagliaccio è assurdo. L'abolizione della leva obbligatoria è una delle poche leggi di buon senso fatte in Italia. 349-238-6666. Non parliamo di leva, parliamo dei 3 giorni, parliamo della vostra esperienza, il viaggio che avete fatto quando siete arrivati e magari la faccia che avete fatto quando vi hanno detto abile, arruolato. Questa è la storia di Paolo. Avevo 20 anni e dopo il diploma avevo scelto di andare a lavorare. Sì, dico scelto perché avevo la fortunata possibilità di continuare gli studi. Al tempo pensavo che l'università non facesse per me. Quindi trovai facilmente lavoro in un'azienda della mia città. Mi piaceva molto, ma in pochi giorni sentii il desiderio di iscrivermi all'università. Le iscrizioni erano già chiuse, quindi tutto doveva essere rimandato di un anno. Qualche mese dopo arrivò la cartolina per la visita di leva. La leva obbligatoria era stata da poco abolita, ma il mio era l'ultimo anno. Che sfiga. Tutti i miei amici l'avevano scampata perché universitari. Io però lavoravo, quindi non c'era scampo. Potevo essere chiamato. Quindi l'iscrizione all'università rischiava di essere ancora più rimandata. L'unica speranza era essere scartato alla visita di leva. E per via di un piccolo problema fisico, il dottore mi aveva assicurato che sarei sicuramente stato esonerato. Sarebbe stato sufficiente portare con me tutta la documentazione sanitaria e senza ombra di dubbio sarei stato dichiarato inabile. questa sicurezza, chiaramente se lo dice il dottore, mi presentai al distretto militare di Padova. Era una mattina di giugno, pronto per la visita di leva. Dopo il diploma avevo cominciato a lavorare come disegnatore meccanico in un'azienda della zona, poi è arrivata la lettera della convocazione alla visita di leva, a cui speravo di camparla a causa di un lieve problema fisico alla schiena, diciamo, e quindi avevo portato i raggi e tutti i documenti che dovevano certificare questa cosa. Iniziarono ad arrivare altri ragazzi, molti intimoriti dall'ambiente militare. Fummo divisi in gruppi e iniziarono le visite. Altezza, peso, urine, cardiologo, oculista, test psicologico. Ti piacciono i fiori? Vuoi fare il fiorista? E infine, la visita generale. Dopo aver rotto il ghiaccio con una imbarazzante palpatina, fu il momento di presentare le carte che mi avrebbero salvato. La risposta fu rapida. Non mi faccio vedere niente. Boh, pensai. Chissà cosa avrà deciso. Dopo qualche ora fummo chiamati in un ufficio per la comunicazione del risultato della visita. Fila indiana. Uno alla volta entrava, 30 secondi, usciva, avanti un altro. Fuori dalla porta, il silenzio. O almeno così me lo ricordo, perché non dissi una parola per tutto il giorno, per quella paura. Non conoscevo nessuno. Ero circondato solo da una manica di coetanei esaltati che solo perché in mimetica ci urlavano contro. Dopo qualche ora d'attesa, uno degli esaltati esce dalla porta e mi chiama, ovviamente urlando, «Faccin Paolo!» Era arrivato il mio turno. Entro, chiudo la porta, due passi fin davanti la scrivania e mi trovo di fronte un uomo sulla cinquantina, infinitamente alto, che dice ciò che non volevo sentire. Abile, arruolato. Prima che mi mancassero le forze mi girai e uscii. Ero sconvolto. Mi diressi a caso verso la stazione. Tutti i miei piani sarebbero saltati. Niente università. Poi pochi giorni dopo presentai la domanda di obiezione di coscienza e la lettera di dimissioni. L'estate del 2003 la passai studiando per il test d'ammissione e a prepararmi ad un anno memorabile. La domanda fu accettata, il test d'ammissione superato. Il 3 ottobre avrei iniziato il servizio civile e lo stesso giorno iniziò anche l'anno accademico. Dopo la visita mi sono iscritto all'Università di Padova, ingegneria meccanica, e invece il servizio civile l'ho iniziato e portato a termine presso una comunità terapeutica psichiatrica in un paese vicino al mio. Fu un anno molto intenso, metà della giornata nella comunità dove ero stato assegnato e metà all'università. L'obiettore fu un'esperienza stupenda, mi fece crescere come mai avrei immaginato. Quei 10 mesi non li scorderò mai. E io che speravo di scamparla. Potrei raccontarti il mio primo giorno di scuola. Il grembiule e il cestino, mia madre e le foto davanti all'aiuola. Le giornate passate a giocare in un mondo inventato. Le ginocchia sbucciate, il pallone bucato da un vicino incazzato. Potrei raccontarti dei miei inverni a Guardia Piemontese, mentre la gente si faceva le canne, io frequentavo le chiese. Perché la mia non è una vita speciale, e molto spesso me la devo inventare. Perché la mia non è una vita speciale, ed è per questo che la voglio cantare. Di quando stavo con quella diva di Torino, di quel cretino che infilava le carte nella marmitta del mio motorino. E potrei raccontarti della mia prima storia di sesso, della mia andatura imperfetta, della sua mano che andava troppo di fretta. Il simbolo è un elemento della comunicazione che esprime contenuti di significato ideale dei quali esso diventa il significante. Sembra complicato, ma statemi dietro, non è difficile. Un simbolo non nasce mai prima del significato che vuole esprimere. Se quel gesto, quella frase, quell'oggetto capitano al posto giusto, nel momento giusto, ci sono buone possibilità che assumano un valore simbolico per gli altri. Anche i simboli, come tutte le forme di comunicazione, hanno una data di scadenza, una durata oltre la quale non raccontano più niente. Ecco, per tutti i maschi italiani, il simbolo del passaggio all'età adulta, dal 1861 al 2005, è stata la visita dei tre giorni. Tutti i maschi italiani a 18 anni sono passati per quella visita. L'aspettativa cominciava già qualche anno prima. Tanto sapevi che quel momento sarebbe arrivato, che lo volessi oppure no. Ascoltavamo i racconti di qualche amico più grande che c'era passato da poco. La visita dei tre giorni creava qualche apprensione, ma era anche un incubatore di storie davvero affascinante. A 17 anni e mezzo non ricevi chissà quale corrispondenza, quindi quando mi sono visto recapitare quella busta marrone, ho capito subito. Era lei. Ero convocato alle 8 della mattina in una caserma di Torino. C'erano due fogli timbrati per avere i biglietti del treno gratis e il suggerimento, anche quello dietro timbri e protocolli, di portarsi un documento. Per quelli che venivano da fuori, e io ero fra questi, offrivano anche una branda incamerata, bastava richiederlo. Parto da Novara insieme a un gruppo di tamarri diretti anche loro alla visita dei tre giorni. Il loro capetto è uno di un anno più grande di me, che pochi mesi prima mi faceva gli scherzi al telefono perché ci piaceva la stessa ragazza. Arriva anche lui. L'anno prima l'avevano fatto rivedibile e quindi deve tornare. Si comincia bene, penso. Invece il capetto dei tamarri, appena mi riconosce, mi viene ad abbracciare. A sentire lui sembriamo commilitoni che hanno fatto la guerra insieme. E io penso che vabbè, almeno non sto da solo. E mi metto a sedere a fianco dei tamarri. Una volta arrivati, i militari sono sbrigativi e maleducati nei modi. Il capetto dei tamarri li sfotte a bassa voce e i tamarri ridono. Io però cerco di non dare troppo nell'occhio. Quasi tutti quelli che incontro hanno delle chiazze nere in faccia e sui vestiti. Quando poi ci fanno infilare l'indice in una boccetta d'inchiostro per prenderci l'impronta digitale, do un senso a tutte quelle macchie. Ci fanno aspettare tra una visita e un'altra un sacco di tempo. Si aspetta in cortile o in sala d'aspetto. C'è un militare di una quarantina d'anni. Ci guarda, scrocca una sigaretta dietro l'altra. Ci dice di aspettare, ci chiede se vogliamo vedere un film, che film ci piacciono. Ci chiede se ci piacciono i film porno e ci spiega tutto sui film porno. Il giorno dopo lo rincontro e fa gli stessi discorsi a un altro gruppo di ragazzi. E poi c'era la stratoracica. Aspettiamo in fila in canottiera. Per ognuno di noi, e siamo tanti, c'è un militare che ripete sempre la stessa frase. Non respirare, poi il clang della lastra, respira. L'unica variazione che si concede, quando gli si presenta l'occasione, è l'aggiunta che riguarda la catenina. La catenina in bocca! E io penso per un po' a quello che passa la vita a ripetere sempre la stessa cosa, la stessa frase, a tutti. Poi faccio il test attitudinale e c'è proprio la domanda, ti piacciono i fiori? Io rispondo di sì e mi mandano al colloquio con lo psicologo. Poi, nel primo pomeriggio del terzo giorno, c'è l'ultima fila. Un ragazzo brufoloso urla il mio nome, entro e il superiore mi dice che sono abile. Ho finito. Fuori dalla caserma ci sono quelli che sono stati riformati per il soffio al cuore o per i piedi piatti che festeggiano, quelli che scroccano sigarette e quelli che una volta fuori battono la stecca a chi sta dentro. Insomma, tutto secondo copione. Faccio il biglietto con un pezzo della cartolina marrone che mi era arrivata e torno nella realtà. Ecco, ci sono simboli che, anche se appartengono al passato, non hanno smesso di indicarci la strada, e altri che hanno esaurito la loro luce ancora prima di estinguersi. Della visita dei tre giorni nessuno ne sentirà la mancanza. In piena facoltà, egregio presidente, le scrivo la presente, che spero leggerà. La cartolina qui mi dice terra terra di andare a far la guerra quest'altro lunedì. Ma io non sono qui, egregio presidente, per ammazzar la gente più o meno come me. Io non ce l'ho con lei, sia detto per inciso, ma sento che ho deciso e che diserterò. Ho avuto solo guai da quando sono nato e i figli che ho allevato han pianto insieme a me. Mia mamma e mio papà ormai son sottoterra e a loro della guerra non gliene fregherà. Quando ero in prigionia, qualcuno m'ha rubato mia moglie, il mio passato, la mia migliore età. Domani mi alzerò e chiuderò la porta sulla stagione morta e mi incamminerò. Vivrò di carità sulle strade di Spagna, di Francia e di Bretagna, e a tutti griderò di non partire più e di non obbedire, per andare a morire per non importa chi. Per cui se servirà del sangue ad ogni costo, andate a dare il vostro se vi divertirà. E dica pure ai suoi, se vengono a cercarmi, che possono spararmi, io armi non ne ho. Faccin Paolo, occhiali da sole nella foto che ci ha mandato, dietro un cielo molto blu con delle chiazze di nuvole bianche. Ha un cappello in testa che più che un cappello in testa sembra un toupé di stoffa e una barba incolta. Decisamente non da Naia. Pronto Paolo? Buongiorno Matteo. Come stai? Bene, grazie. Dove tu? Sei? Io benone, grazie. Dove sei? A Schio? Sì, sì. Grazie. Sì, sì, sono qua in auto, al silenzio. E perché sei uscito perché eri in ufficio oppure... Esatto. Mi ricordi che lavoro fai, Paolo? Ma sono impiegato tecnico, sono un ingegnere in un'azienda qua della zona. Questo è il tipico profilo basso degli ingegneri. Cioè gli ingegneri sempre, ma sì, sono un ingegnere, cosa fai? Disegno quelle ali sulle quali vola la gente. Sì, però insomma alla fine sai, faccio l'ingegnere. Da quanto lo fai, Paolo? Da 3 anni. Senti, qualche ricordo di quel servizio civile che alla fine sei stato contento di fare, giusto? Sì, sì. Che cosa facevi esattamente? Facevo servizio presso questa comunità psichiatrica, dove c'erano una decina di ospiti, e allora mi occupavo, sì, di fare un po' di pulizie, fare da mangiare, fare qualche commissione, andare a fare qualche gita con loro... Insomma, l'obiettore di coscienza, quello che fa l'obiettore di coscienza, quello che abbiamo fatto tutti quelli che hanno fatto il servizio civile sostanzialmente. Paolo, tu hai detto una cosa, hai usato un termine curioso nella tua presentazione, parlando di tua moglie, mm-hmm. Hai detto la mia sposa, certo. Che credo sia, che perché dalle tue parti si dice sposa, giusto? No, perché siamo sposi da pochi mesi, quindi... Ah, siete novelli sposi? Sì. Da quanto? Quasi 2-3 mesi, aspetta, settembre, ottobre, novembre, dicembre, quasi 3 mesi. Da quanto vi conoscevate? Da 7 anni. E cos'è cambiato nella vostra vita? È migliorata molto. Ma vivevate insieme prima oppure? Sì, avevamo vissuto insieme un annetto. Ah, ok, avevate fatto il test. Sì. Quanti anni avete? Io 30, lei 28, anzi 27, no 28. Ok, insomma siete dei giovani sposi per questo paese. Intanto la tua storia ha creato uno sconvolgimento generale di gente che ha odiato quel periodo, di gente che l'ha amato. Sono stati 3 giorni orribili, mi hanno messo nel reparto di neurologia dell'ospedale addirittura. 349-238-6666. Paolo, io ti ringrazio per la tua storia. Che cosa hai in mente di fare nel tuo futuro? Hai in mente di rimanere lì a Schio? Perché nella tua presentazione dicevi sono nato, sono cresciuto, vivo, lavoro a Schio. Hai in mente di rimanere, hai in mente di andare? Sì, diciamo che... Ma sì, no, non ho progetti di... Avete comprato casa? Non ancora, però prima o poi succederà. Farete un bel mutuo? No, non ancora. Però ho una vita davanti per pagare le rate del mutuo. Ma scusami, ma vivete insieme però? Chiaro. Ah, in affitto banalmente. Sì. Come sono gli affitti a Schio? Ma normali penso, non lo so. Sì, cioè, se tipo il vostro appartamento, un appartamento come il vostro si aggira tra le 500 e 800? No, meno. Meno? Meno, benissimo. È che stare a Milano ti sballa un po' i riferimenti. Mi devi scusare. Paolo, ti ringrazio e ti auguro in bocca al lupo. Scusa perché mi sono fatto un po' i fatti tuoi, ma ogni tanto capita. Saluti alla tua sposa. Buona giornata, ciao. Ciao, grazie. Ciao. Perché poi c'era un collegamento telefonico, evidentemente a Schio ci sono dei ponti strani. Sono di Ancona e 30 anni fa ho fatto i 3 giorni a Forlì. Mi hanno arruolato e ho fatto i miei 12 mesi di Naia. Un'esperienza utile, perché nella vita tutto serve. Lui è uno di quelli che alla fine tutto serve. Sono stato fiero di me quando ho saputo dell'idoneità, per non parlare dell'anno di leva, uno dei più belli anni della mia vita. È proprio così, non c'è una via di mezzo, mi sembra. O è stata una figata incredibile, o è stata invece una roba che... Mamma mia! Tra l'altro ho giusto preparato ieri una delle puntate che andrà prima di Natale, che ha a che fare con la leva, ed è una puntata bellissima. Rimanete lì o scaricatevi il podcast se non riuscite a farlo. E poi è arrivato un messaggio che è proprio di oggi, di ieri, perché mi scrive, anche se non si firma: penso a mio figlio, oggi primo giorno di militare ad Ascoli, non ho notizie da ieri, evidentemente gli avranno sequestrato il cellulare, sta marciando in silenzio, stringendo i denti, ma con una bella luce negli occhi. Allora noi ce lo auguriamo per lui, per te, ci auguriamo anche che gli restituiscano il cellulare, anche solo per un SMS, no, WhatsApp, qualsiasi cosa sia. E poi un pensiero anche per lui che scrive: sono un medico militare, ero un medico che visitava i ragazzi al distretto militare di Milano per i 3 giorni, e mi immagino lì il non respira, respira. Grazie a Paulino Corleoni, Tiziano Bonini, Margherita Hina. Scaricate il programma in podcast se non riuscite ad ascoltarlo, e soprattutto scrivete storie, continuate a scrivere storie e inviatela a voi siete qui @radio24.it. domani dal vivo Virginiana Miller qui ai mercoledì live di Voi Siete Qui. Vi ricordo che ci sono i video degli altri live sul nostro profilo Facebook e sul nostro profilo YouTube, ma da Facebook, Voi Siete Qui, Radio 24, trovate tutti. A domani, grazie a Paolo, la storia di oggi era la sua e anche lui è un punto rosso su una mappa. Ciao, sono Amedeo, la storia di domani è la mia e parla di un lampo. Questa è la mia storia e io sono qui.